Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: oggi le borse fanno poca notizia, Milano è invariata anche Parigi, Francoforte meno 0,40, l'America meno 0,10 e Londra più 0,15. Ci occuperemo invece in apertura della vicenda che sta coinvolgendo sempre più pesantemente i vertici dell'ENI, l'inchiesta della magistratura sulle tangenti, il conto, insomma, il giro di denaro per la Nigeria, che ha coinvolto l'ex numero uno Paolo Scaroni, ma anche l'attuale numero uno Descalzi, nonostante la smentita dell'azienda che ha detto non vi è nessun illecito, mai pagati i mediatori. Però su questo faremo il punto con il nostro Claudio Gatti, che già oggi su Sole 24 Ore ha un'ampia inchiesta sulla vicenda, e ricordo che si occupò di Nigeria anche lo scorso 5 luglio, anticipando in qualche modo l'inchiesta che ha coinvolto l'ENI, e cito testualmente, una bega da $1 miliardo, ossia la cifra pagata dall'ENI per un giacimento di greggio in Nigeria che formalmente è andata al governo nigeriano, ma in realtà è stata dirottata sui conti di una società dello stesso ministro del petrolio. La Procura di Milano chiaramente è quella che indaga. Cercheremo anche di analizzare in maniera realistica, cioè il punto, so già che questo, come nel caso degli elicotteri di Finmeccanica in India, scatenerà polemiche, però un conto è capire se l'ENI sta e ha adottato, come Finmeccanica, delle procedure. Allora, vogliamo fare, lo dico subito, le vergini o le mezze vergini, oppure ragionare in realistica. In alcuni paesi, poi uno può anche decidere di non operare in certi paesi, però in alcuni paesi è cosa nota che i concorrenti, tutti, mi riferisco alle compagnie petrolifere, e nel caso delle forniture di armi, e mi riferivo anche a quelle, beh, i concorrenti si muovono in un certo modo. Allora uno le può chiamare mazzette, le può chiamare bonus, regalie, quello che volete. Può anche decidere di non operare in Nigeria, e quindi di non operare in regimi che si sa hanno un altissimo tasso di corruzione, da fare invidia perfino all'Italia. Però un conto è dire che si mettono in atto delle pratiche, molti ascoltatori citavano il 5% classico che viene in qualche modo girato, destinato agli interlocutori. Altra cosa, scusatemi per la pessima qualità della voce, altra cosa invece è il nuovo capitolo della vicenda in cui i PM di Milano accusano i mediatori, non solo internazionali ma anche nazionali, e i vertici stessi dell'ENI di aver trattenuto una parte di questo giro di appunto mazzette o di soldi. Sono due cose molto diverse. So che può sembrare una distinzione sottile, ma non lo è. Un conto è vincere un appalto e cercare di non essere, di fare quello che fanno anche i concorrenti, se si vuole concorrere in certi paesi. Altra cosa è intascare i soldi. E su questo doppio binario cercheremo di muoverci per capire quali siano gli elementi e le accuse nel dettaglio che muove la Procura di Milano. Questo per quello che riguarda la vicenda ENI. Parleremo anche della vicenda, dovremmo tornare a occuparci di come vengono utilizzati i soldi dei cittadini dai politici locali, e il riferimento va ovviamente alla regione Emilia-Romagna. Attenzione, lì ho visto delle cose molto strane, poi ne parliamo. Qualcuno citare il fatto che 4.000 euro in spese di ristoranti fosse una cifra tutto sommato modesta, mi riferisco ad alcune delle cifre emerse sulle spese della regione Emilia-Romagna. Il punto non è, intanto è molto difficile dire che 4.000 euro sono pochi e dov'è che metti l'asticella. Il punto non è capire se 4.000 euro di cene siano tanti o siano pochi, il punto è capire se queste cene siano state fatte per motivi elettorali, cioè come prevede la legge, per attività politica sul territorio, e se il criterio utilizzato sia stato quello di andare veramente a contenere al massimo i risparmi. Perché lo dico? Perché chi vi parla gestisce anche molto modestamente le note spese della redazione di Radio 24, ed è molto diverso firmare una nota spese e quindi chiedere un rimborso per una normale attività di lavoro, in questo caso di rappresentanza politica sul territorio, come prevedevano appunto i soldi a disposizione dei consigli e dei gruppi politici nelle varie regioni, altra cosa è leggere, per esempio nel caso di Marco Monari, indagato del PD, non è solo il fatto che da marzo 2010 a fine del 2011 hanno avuto spese per 30.000 euro in cene sulla sua carta di credito, anche perché da quello che si capisce la carta di credito di Monari veniva utilizzata da altri consiglieri. Monari era il capogruppo del PD in regione. Però quello che uno può dire, vabbè, ma se questi 30.000 euro li hanno spesi 10, 20 persone per diverse cene, la cifra di per se stessa pro capite non è allarmante. O meglio, bisogna vedere poi quante persone erano a piedi lista. Il problema è che quando tu vedi, per esempio, una spesa in un ristorante romano che è tra i più cari che esistono a Roma, Rosetta al Pantheon, si può dire, è stato scritto sui giornali, 424 euro, o peggio ancora, tre persone che spendono 690 euro alle Calandre, che è uno dei più famosi ristoranti in Italia, a Padova, due stelle Michelin. Ora, io capisco, ammettiamo anche che le tre persone fossero tutte, stessero tutte svolgendo attività politica, beh, per svolgere attività politica non devi per forza andare a spendere 230 euro a testa di cena in uno dei ristoranti più cari che esistono in Italia, giustamente, visto che ha due stelle, forse ha preso anche la terza stella Michelin. Ecco, questo si sta dicendo, nessuno contesta che vi possano essere rimborsi, ma in qualunque gruppo privato si va a vedere anche la qualità del rimborso che viene chiesto, non solo la cifra in senso astratto. Di questo parliamo tra poco, e poi chiaramente tutta la pagina invece relativa all'Eurogruppo che si sta tenendo qua a Milano, le indicazioni che stanno arrivando, la voce e le dichiarazioni rese anche da Mario Draghi. Faccio notare che c'è stata una leggera apertura del falco Schäuble, e quindi il ministro delle finanze tedesco, che ha detto beh, forse anche la Germania dovrebbe tornare a investire, forse a consumare di più, però. E poi si segnala anche la dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ha detto attenzione, per ridurre in maniera effettiva il carico fiscale sul lavoro ci sarà un impegno e una priorità politica dei paesi dell'area euro. Domani vi sarà sempre qui a Milano il primo Ecofin, quindi vertice dei ministri economico-finanziari di tutta l'Europa, ed è il primo dopo l'estate, ed è il secondo presieduto dal ministro Piercarlo Padoan. Perché l'Italia ha il semestre di presidenza. Ricordo che nel primo Ecofin presieduto dal nostro ministro dell'economia, Padoan insistette molto sulla necessità di riflettere per rafforzare gli incentivi a realizzare le riforme, cioè la classe politica dei vari paesi che devono fare riforme deve vedere anche un incentivo affinché queste riforme vengano fatte, quindi non solo fai così se no ti bastoniamo e se no diciamo sfori i parametri, ma arriveremo e ne parleremo ampiamente. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook e le altre notizie in breve. Faccio il tesoriere di Radio 24, dico semplicemente, come scrivono alcuni ascoltatori, che in moltissime aziende e gruppi ci sono precisi limiti per i pranzi, per le spese di trasferta, le cene, poi uno magari in casi eccezionali può sforare giustificandoli, ma esistono i limiti, non si capisce perché i consiglieri del PD e non solo in Emilia Romagna dovessero andare alle Calandre, che sta pure a Padova, a spendere 690 euro. Non è un problema di 690 euro, so anch'io che 690 euro non cambiano il destino del paese, lo dico chi mi sta scrivendo, ma è un problema di messaggio che tu dai, di atteggiamento che tu hai, no? Visto che si parla del nuovo e di cambiare verso. Eccola qua. Allora, fissate anche per i consiglieri regionali dei tetti di spesa su sti pranzi e ste cene, visto che, per non parlare degli acquisti da Tiffany e altre amenità, quelli non c'entrano e basta, ma dico anche nell'attività normale di lavoro, fate come fanno i gruppi privati che stabiliscono un tetto, ogni tanto vi può essere qualche deroga, ma fine. Vabbè, arriveremo, dicevo, alle dichiarazioni di Mario Draghi, quelle di ieri sera le avete lette oggi su molti giornali, però questa mattina Draghi è tornato sul tema degli investimenti, per far sì che tornino gli investimenti nell'area euro. In alcuni paesi occorre fare riforme più ambiziose, va rispettato il patto di stabilità e non vanno scordati i progressi fatti sul fronte del consolidamento dei debiti e poi sulle operazioni annunciate rispettivamente a luglio e la settimana scorsa, quindi gli 800 miliardi di prestito agevolato alle banche perché li riutilizzano per imprese e famiglie ma non per i mutui, e l'acquisto di ABS, quindi di asset, di crediti che le banche vantano ma di buona qualità, Draghi ha detto avranno le due misure un impatto notevole sul bilancio, tra l'altro per quello che riguarda l'effetto complessivo. Gli acquisti da parte della BCE saranno fatti innanzitutto sulle tranche meno rischiose, perché il programma è formulato per poter partire senza dover prendere in considerazione i mezzanini. Cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente la BCE accetterà di ricevere dalle banche i crediti di maggiore qualità, quelli che si chiamano senior o senior dovremmo dire, e quelli in cui il grado di affidabilità di chiedere alla persona che ti deve i soldi è massima, non andrà sul mezzanino, che è la fascia sotto, diciamo la fascia più alta è quella senior, poi c'è il mezzanino. Per cui dice Draghi, la BCE intanto inizierà a prendere solo la parte di maggiore qualità di questi crediti. Voi chiedete che vantaggio ne hanno le banche. Beh, le banche hanno il vantaggio che invece che incassare i soldi che hanno prestato fra 5 anni, fra 7 anni, fra 3 anni, li incassano subito dalla BCE, e poi sarà la BCE a sua volta che li incasserà dai debitori. Anche se il membro belga della Banca Centrale Europea, Luc Koen, ha spiegato che almeno inizialmente la Banca Centrale Europea si affiderà ad altri soggetti per avviare l'acquisto di questi ABS. Andando avanti, visto che mi state anche scrivendo su Schäuble è un falco, lo sappiamo, però ha detto: siamo in un ambiente economico che richiede un rafforzamento degli investimenti in Europa, Germania inclusa. Servono più investimenti, un rispetto del consolidamento, della riduzione del debito, le riforme e un quadro regolatorio migliore. Ascoltiamolo al microfono del nostro Sergio Nava. Ci occuperemo della situazione economica in Europa, sostanzialmente della creazione di condizioni migliori per gli investimenti. Ne abbiamo già parlato a giugno. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti in Europa. Occorrono maggiori investimenti nel settore privato. Il tema, infatti, oggi è come ridurre la distanza fra salari lordi e netti per gli imprenditori, in modo che le imprese possano rafforzare gli investimenti nel settore privato. La strada giusta è maggiori investimenti, mantenendo ovviamente la barra ferma sul consolidamento dei bilanci, sulle riforme strutturali e su migliori condizioni istituzionali. Il tutto per favorire la crescita e i posti di lavoro. Sulla Francia, il mio collega Sapin ha tratteggiato la situazione mercoledì. Parigi farà ulteriori tagli per 21 miliardi, ne abbiamo parlato. Quando la Francia presenterà la sua finanziaria, sarà analizzata dalla Commissione e solo successivamente dall'Eurogruppo. È vero che la Francia mancherà il rientro dal deficit già quest'anno. Anche di questo se ne occuperà la Commissione e in seguito anche Eurogruppo ed Ecofin. Avanti poi a raccontarvi le altre dichiarazioni. Il neo commissario europeo agli affari economici Jyrki Katainen ha detto: attenzione, serve che tra l'altro assume la carica di vicepresidente della commissione, quello di cui commentavamo ieri, insomma verrà messo sopra Moscovici. Ha detto serve è molto rigoroso, è più tedesco dei tedeschi. Katainen ha detto insomma comunque serve un'interpretazione sana del consolidamento, non c'è una situazione di bianco o nero, il mondo non è così semplice. Io però non ho capito nulla di questa dichiarazione, perché la riporto così com'è. Cosa vuol dire Katainen? Occorre un'interpretazione sana del consolidamento, quindi del debito, perché migliori la fiducia. Non ho capito. Mi sembra tutto un politichese infinnico. Boh. Cioè, l'obiettivo è la crescita o è il rispetto dei conti pubblici, deficit e debito? Questa è l'unica domanda a cui deve rispondere il falco finlandese messo a sorvegliare che non si deroghi troppo dal rigore o rigor mortis. Andiamo avanti all'Italia, perché lo dico perché sempre all'interno del tema Europa, dopo l'avvertimento che è arrivato ieri anche dalla Banca Centrale Europea, oggi il premier Matteo Renzi ha detto: attenzione, noi rispettiamo il tetto del 3% nel deficit, siamo tra i pochi a farlo. Dall'Europa dunque non ci aspettiamo lezioni, ma 300 miliardi di euro di investimenti. Questa dichiarazione, anche questa dichiarazione, il premier Renzi l'ha twittata assieme ad altri Twitter, perché ha fatto anche un tweet contro la posizione che le regioni hanno preso sui tagli alla sanità. Ha detto: attenzione, la revisione della spesa non significa tagliare la sanità, ma le regioni, prima di fare proclami, iniziano a spendere bene i soldi che hanno. E poi sulle primarie del PD in Emilia Romagna: i candidati del PD li scelgono i cittadini con le primarie, non soggetti esterni. In Emilia Romagna vinca il migliore. E sull'inchiesta Eni, anche lì un tweet dice: sono felice di aver scelto Descalzi, lo rifarei, rispetto le indagini e aspetto le sentenze. Renzi ha ragione nel dire che non sono tanti paesi, la Francia su tutti, che non riescono a rispettare il deficit del 3%. Su questo è tornato anche il ministro Piercarlo Padoan, che ha detto: attenzione, l'obiettivo dell'Italia, un deficit al 2,6%, è compatibile su un quadro diverso e comunque noi rispetteremo questi impegni. C'è una forte convergenza sull'idea che gli investimenti sono essenziali in tutta Europa per riprendere la crescita. I due ingredienti fondamentali sono riforme strutturali che migliorano l'ambiente per le imprese e più efficacia negli strumenti di finanziamento per attirare i capitali privati. L'Europa deve mettere crescita e occupazione al centro delle priorità dopo che ha messo consolidamento fiscale e unione bancaria, e questo credo che sia totalmente condiviso dai miei colleghi. Come la stessa BCE ammette nel bollettino, come tutti sappiamo, il quadro macroeconomico oggi è molto peggiore di quello di 6 mesi fa e c'è un'ovvia meccanica implicazione per i conti pubblici. Noi comunque rispetteremo gli impegni presi. Dovrete superare resistenza a Germania. Con la Germania non ci sono resistenze, c'è accordo. Allora, sempre sulle vicende italiane e sempre sui tagli alla sanità, il ministro Lorenzin: per ora non è previsto un taglio di 3 miliardi al fondo sanitario complessivo, quello che vale alle regioni che poi devono gestire la sanità in Italia. Il fondo vale, se non ricordo male, 102 miliardi di euro, 109? 109 o 102? Ma da memoria a me sembrava 109. 109 miliardi di euro aggiudicato, ma comunque il vero tema che ha fatto infuriare ieri i governatori, i presidenti delle regioni, è l'ipotesi che questo fondo, dopo l'accordo fatto ad agosto, possa essere limato verso il basso, appunto 3 miliardi di tagli da lì. Sempre la Lorenzin e sempre sui tagli alla sanità ha detto: attenzione, credo che dall'attuazione del patto per la salute ci possano essere molti risparmi già dal prossimo anno e lavorerei più su quello se mi dovessi dare un suggerimento metodologico, quindi si è autocitata. Comunque, ha detto la Lorenzin, adesso procediamo per step, che vuol dire per passo, perché è inutile creare allarmismi prima del tempo. Lavoriamo portando il piano al ministro Padoan e al presidente Renzi. Dopodiché, se ci sarà da affrontare altro, lo affronteremo. Eviterei di fare allarmismi, non ci sono proprio motivi. E noi ci fidiamo. Cottarelli, l'uscente commissario alla Spending Review, ha detto: attenzione, sono a fine del mio lavoro, resto fino ad ottobre. Dal taglio delle società partecipate si può arrivare a risparmiare 2-3 miliardi in 3-4 anni, non è ancora molto ma è già qualcosa. E comunque Cottarelli ha anticipato che l'obiettivo di tagliare in 3 anni le partecipate è portarle dalle 8.000 attuali a non più di 1.000. Solo che la cosa che anche Cottarelli fa notare è bellissima, no, di questo paese, perché in realtà le partecipate dagli enti locali, comuni, province, regioni, Stato, sono 8.000 quelle che risultano alla banca dati del tesoro, ma secondo Cottarelli sarebbero poco più di 10.000. Voi direte: le altre 2.000 che fine hanno fatto? Beh, alcune sono prive di dipendenti, però hanno i consiglieri d'amministrazione, perché l'importante è poi avere il gettone di presenza e pagare l'amministratore delegato. Per cui la selva è talmente intricata che noi ne conosciamo 8.000, ma stando alle stime di Cottarelli ce ne sarebbero altre 2.000 in più. Il vice ministro dell'economia Enrico Morando oggi è tornato sul tema del taglio al cuneo fiscale. Ha detto: fermo restando la stabilizzazione del bonus, gli 80 euro per il triennio 2015-2017, prenderemo l'impegno di ridimensionare i cuneo fiscali in modo significativo su lavoratori e imprese. Per fare questo occorrono però 30-35 miliardi di euro in 3 anni. Al termine, la pressione fiscale in Italia sui lavoratori e imprese sarà vicina alla media dei grandi paesi nostri competitori. E ancora, sempre sul tema della spending review, il presidente di Confindustria Squinzi oggi ha detto: attenzione, le finanze pubbliche sono in una situazione molto difficile, bisogna pensare positivo, ma le risorse si possono realmente recuperare con una seria spending review nel giorno in cui, attenzione, attenzione, l'Istat conferma che l'Italia non capitava dal 1959, è entrata in deflazione. Già c'era stata la prima lettura ad agosto, però adesso abbiamo il dato definitivo. Cadono anche i prezzi dei beni alimentari dello 0,2%, crollano quelli della frutta, meno 7,8%, della verdura meno 3,5%. Ora, io non penso che improvvisamente gli italiani siano diventati, abbiano smesso di essere vegetariani o di amare la salute. Questo è un problema chiaramente legato al potere d'acquisto, meno 8% i prezzi della frutta e meno 3,5% quelli della verdura. 15 le città in Italia in deflazione, c'è anche Milano. I prezzi sono calati a Potenza, Reggio Emilia, Padova, Roma, Bologna e Genova dello 0,2%, a Bari, Trieste, Firenze e Milano dello 0,3% rispetto all'anno prima. Livorno meno 0,5%, Torino meno 0,6%, Verona meno 0,7%, Venezia meno 0,8%. E mentre l'Italia certifica una cosa che, ripeto, non capitava dal 1959, ma lì l'Italia cresceva a doppia cifra, la disoccupazione era quasi inesistente, la lira da lì a poco avrebbe vinto l'Oscar della moneta più stabile del mondo, cioè un altro mondo, un'altra epoca. Ma detto ciò, oggi scopriamo anche che, secondo la UIL, per una famiglia su due la TASI costerà più dell'IMU. Attenzione, governo, perché rischia la TASI di mangiarsi buona parte degli effetti economici degli 80 euro. Poi non ci lamentiamo se non ripartono i consumi, l'economia non è che la possiamo fare così, un tanto al chilo. Una famiglia fa i conti, come dovrebbe fare anche uno Stato o un buon amministratore pubblico. Ancora su questo, la produzione industriale è tornata in calo a luglio, meno 1% rispetto a giugno e meno 1,8% rispetto all'anno prima. Siamo a livello di produzione industriale più bassa dal 2009, siamo indietro di 5 anni. Allora, io non ne posso più di dare queste notizie perché mi do il gufo da solo, però io mi chiedo come si faccia ancora a dire che faremo uno 0,2-0,3 quest'anno e non vorrei di nuovo fare un'altra operazione verità fra 2 mesi. A noi giungono voci, poi fra 3 giorni esce il centro studi Confindustria, per cui vedremo anche le prossime stime, che non sarà meno 0,1, potrebbe essere l'ultima cifra che abbiamo detto senza lo 0 davanti. Allora, attenzione, se abbiamo la produzione industriale ferma, che è tornata ai livelli di 5 anni, e se abbiamo la deflazione che viene certificata, io mi chiedo da dove cavolo arriverà questo più 0,2, più 0,3. Forse l'operazione verità è dire che anche quest'anno saremo in recessione e anche quest'anno, diciamo, ci siamo sbagliati. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Dopo il meteo e la pubblicità cerchiamo di capire perché in questo clima economico a maggior ragione girino le scatole nel vedere alcune spese e nel vedere anche cosa è successo nella regione Emilia Romagna. Abbiamo raccontato la Lombardia, abbiamo raccontato il Piemonte, abbiamo raccontato migliaia di volte la Sicilia e c'è anche l'Emilia Romagna, e su questo, nonché vedere anche così altre attività messe in campo sempre dalle nostre regioni. Ma non si possono abolire una volta per tutti i rimborsi dei consiglieri regionali? Facciamo che, non so, o mettere un tetto, un ticket, cioè 30 euro, 15 euro a pasto, a pranzo, 60 euro a cena, e la finiamo qua. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Allora, mi scrivono alcuni ascoltatori, adesso arriviamo con le spese della regione Emilia Romagna, però dove cavolo è finita? C'era un sms bellissimo di un insegnante che mi diceva: a me il rimborso chi me lo dà per i 135 euro che all'anno spendo di cancelleria di tasca mia? E non posso certo chiederli ai genitori che già portano la carta igienica, i fogli A4, le penne e i block notes. E mi piace non tanto perché sia così demagogico, perché al di là di c'è chi mi scrive: non vedo più carne rossa da un anno, vabbè, siamo in quattro, controllo anche quanta luce consumo. Ma c'è un'ascoltatrice che si firma Ilaria, perlomeno, che dice: però attenzione Barisoni, non esagerare, in Italia gli affari si fanno davanti al miglior cibo, per cui se io sono il consigliere eletto a Modena e devo portare a cena Barilla, non è che posso spendere 60 euro. Allora, abbia pazienza. A parte il fatto che io vorrei capire, cioè una cena con un grosso industriale, immagino faccia parte dell'attività politica, ma scusi, ma pagherà Barilla, no? E poi voglio capire qual è l'attività politica che si fa nel portare a cena, perché quei soldi devono essere rimborsati, lei può andare a cena con chi vuole, ma il rimborso avviene solo se tu lo stai facendo per all'interno del tuo mandato. Allora ci può essere un incontro, per forza di cose a cena, con Barilla, poi che pasta mangiate, non lo so, poi lasci star Barilla, Radio 24, che già abbiamo avuto abbastanza problemi, ma dico, ma anche in questo caso, lei vuole giustificare che si possono accettare certi rimborsi? Ma mica è un soggetto privato che viene valutato privatamente, poi sarà la società privata a dire sì, va bene, abbiamo pagato tanto, ma abbiamo ottenuto molto di più. Tu sei un consigliere eletto dai cittadini, che incontra vari soggetti del territorio, se veramente volete vedervi a cena, e pagherà chi ti invita, e fine, perché devo pagare io? Invece sulla deflazione molti messaggi segnalano: attenzione, il prezzo della frutta può essere calato per il blocco che arriva dalla Russia. Sì, ma non basta come spiegazione, nel senso che poi c'è un calo complessivo dell'indice alimentare dello 0,2%. In realtà il blocco russo si sta scaricando, e ce lo racconta oggi la FAO, non solo non tanto sulla frutta, sull'ortofrutta, ma sul prezzo del latte, perché ha raggiunto tra i livelli più bassi degli ultimi anni, perché la Russia ha bloccato l'importazione di prodotti lattiero-caseari, e questo ha avuto l'effetto di deprimere i prezzi, così come in contemporanea sono rallentate le importazioni di latte in polvere dalla Cina. La Cina è il più grande importatore al mondo di latte in polvere, e quindi il combinato disposto delle due cose ha fatto abbassare drasticamente il prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che in alcuni casi hanno raggiunto il livello più basso da 5 anni a questa parte. Allora, vediamo un po' chi è un eroe. Matteo Richetti, contestati 5.500 euro, anche 500 euro per due notti in albergo, va bene. Stefano Bonaccini, 4.000 euro per cene e pranzi rimborsi. Thomas Casadei, due scontrini, lì si è scusato perché gli erano finiti nel portafoglio i due scontrini da 50 centesimi per i bagni pubblici. Marco Molinari, lo citavo, non è solo la cifra in sé. Non si capisce perché uno debba andare a pagare coi soldi nostri Rosetta al Pantheon, uno dei ristoranti più cari di Roma, e le calandre a Padova, 3 stelle Michelin, 690 euro per 3. E poi ancora due notti in hotel a Venezia per 1.100 euro, anche lì. Ma un albergo a Venezia che non costi 550 euro a notte? Ma se troverà, glielo diamo noi. Ci abbiamo anche le rubriche su questo. Allora, e poi Vasco Errani non è indagato, però le auto blu da giugno 2010 a agosto 2011 costano 20.000 euro in totale. Addirittura Silvia Noè, che è dell'UDC ed è cognata di Casini, è riuscita a mettere a rimborso due cene di beneficenza. Ma porca miseria, ma se ci credi alla beneficenza, tira fuori i soldi tuoi, Silvia Noè, ma che ce li fai pagare a noi? Cioè tu fai la figura di quella che va alle cene di beneficenza e poi mi metti in rimborso. Ma vergognati due volte, uno perché sono soldi nostri, due perché erano pure per beneficenza. Non me ne frega nulla che sia la cognata di Casini. Ancora Luigi Giuseppe Villani del PDL, indagato, anche lui la sua carta di credito la utilizzavano molti altri politici del partito, 43.000 euro di cene, a volte fino a 40 commensali, ma che cavolo era. E ancora, ovviamente 600 euro di spesa natale per agende, 480 per un gioiello di Tiffany, pure questa fa parte dell'attività politica. Magari andava pure a colazione la Tiffany. Ancora Liana Barbati dell'Italia dei Valori, omaggi floreali, non si capisce perché la politica si mette a fare omaggi floreali, 300 euro in mimose per la festa della donna. altri 250 per due mazzi di fiori regalati a due neomamme. Vabbè, ma tutto bello, tutto giusto, ma non coi soldi nostri. Compra i fiori e pagateli tu, come fanno tutti i comuni mortali. Gianguido Bazzoni, PDL, non è indagato. 1000 euro per ristorazione per la trasferta al meeting di CL. Ora, siccome le note spese le firmo anch'io, come cavolo hai fatto in tre giorni a spendere 1000 euro di ristoranti? Lo sai solo tu. E Marco Lombardi del PDL, che per lo stesso motivo spende 650 euro di ristoranti. E poi chiudiamo in bellezza, che c'ho il traffico e mi sta andando via la voce. Allora, certo, poi c'è Fabio Filippi del PDL che va a Rimini. La Bologna deve andare a Rimini, deve per forza dormire a Rimini. Cioè, qua li facciamo rientrare. Ride il tecnico, ne sa qualcosa, a meno che non sia proprio a Palermo rientri. No, da Bologna deve andare e dormi a Rimini. Ma perché 1000 euro di spese in hotel, 200 euro a notte per dormire a Rimini per il meeting di CL? Vai da CL, o te lo fai offrire da CL, o te lo paghi tu. Ultimo, Roberto Montanari del PD non è indagato, però è un mito, perché con il collega Monari, che diciamo Marco Monari, indagato Monari, non è di origine veneta. Allora, il collega Monari mise a rimborso 900 euro per un viaggio da Napoli ad Amalfi con auto a noleggio con conducente, pubblicizzata come servizio limousine. Io vorrei sapere perché un consigliere regionale della regione Emilia Romagna deve andare da Napoli ad Amalfi pagando l'auto a noleggio con conducente, pagando appunto 900 euro più altri 800 euro per due notti all'hotel La Bussola di Amalfi, che a casa mia quindi costa 400 euro a notte. Sapete perché? Attività politica fondamentale, partecipavano a un convegno di Area Dem, la corrente di Dario Franceschini all'interno del PD. Mo non ce la faccio veramente più. In diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo invece alla vicenda Eni, che è tutta un'altra storia e non voglio nemmeno che si confonda. Però mi scrive di nuovo tale Ilaria, spero che sia veramente così il nome, ma guardi che tra le cene e il SUV, penso al SUV di Fiorito, no? Perché c'era la neve a Roma, c'è differenza. No, Ilaria, non c'è nessuna differenza. Certo, c'è una differenza nella montare, nella pena, nel reato, quello che è, ma il principio è lo stesso, te ne sbatti dei soldi dei cittadini, il principio è identico. Così come le mutande di Cota l'abbiamo inchiodato per le mutande, perché il principio non è le mutande verdi, il principio è che non usi i soldi dei cittadini, quell'altra che comprò il vibratore, il profilattico, il teletrasporto dei consiglieri regionali del Piemonte, ma ce lo ricordiamo? Cioè, quello che spendeva in autogrill a Cuneo e un secondo d'opera già a Roma. Ma cioè, abbiamo visto di tutto in questo paese. Allora, il principio è identico: i soldi dei cittadini non sono soldi tuoi e ne puoi abusare quanto vuoi. Poi, certo, Fiorito verrà condannato e si compra il SUV perché c'era neve, l'altro va in tre a cena nel Calandre e spende 690 euro. Ma il principio è identico, Ilaria, lei si sbaglia. C'è sempre chi vede peggio del peggio, perché mi scrive un ascoltatore e dice: pensa quando scoprirai che i 40 commensali avevano pure pagato la romana e lui si era preso la ricevuta complessiva. Vabbè, senta, lei è troppo pessimista. Allora, Leni, tutta un'altra vicenda. Il nostro Claudio Gatti, devo dire che già nostro del Sole 24 Ore l'aveva già anticipato a luglio, è brutto dire in questi casi, l'avevamo detto, ma insomma a luglio, il 5 luglio esce sul Sole 24 Ore un pezzo di Claudio Gatti che ricorda l'inchiesta che ha coinvolto Leni. Allora, Claudio, in collegamento con noi da New York, buonasera. Buonasera a voi. Mi sento un po' male, poi casomai sistemiamo la linea. Allora, Claudio, poi arriviamo ai capi di imputazione, secondo la procura, però qui in ballo c'è $1 miliardo depositato, secondo l'accusa, su un conto del governo nigeriano presso JP Morgan per ottenere i diritti di esplorazione e la concessione dell'area che si chiama in sigla OPL 245. Teoricamente questi soldi Leni doveva darli tutti al governo nigeriano. Dalle indagini è emerso che 523 milioni sarebbero stati dirottati a fini corruttivi. Siccome qua in questo programma non amiamo le mezze vergini, sappiamo che in certi paesi africani, ma non solo, per se vuoi vincere qualche gara o non far vincere solo i francesi, gli inglesi e gli americani, diciamo, c'è una percentuale di bonus che devi dare al governo. Ora, per cui io su quello direi, per carità, brutta vicenda, ma purtroppo o non ci lavori in quei paesi o devi accettare alcuni principi. Mi sembra di capire però, Claudio, che la procura va oltre, perché dice che alcuni soldi non sono andati come bonus, come olio, come mazzetta al governo nigeriano, sono rientrati in Italia, Claudio. Diciamo che c'è il sospetto della procura che una parte di quel denaro sia finita sia a intermediari nigeriani e italiani, ma quello è più di un sospetto, ci sono delle evidenze che era programmato che fosse così. L'unico motivo per cui non è ancora successo è perché la procura di Milano si è mossa e ha chiesto il congelamento di fondi che sarebbero finiti su i conti di un intermediatore nigeriano e il suo socio italiano Gianluca Di Nardo. Quindi questi soldi erano già, diciamo, diretti lì. Dopodiché c'è il sospetto che ci siano stati i famosi retropagamenti, cioè che una parte del denaro, che comunque è un ammontare enorme, perché l'intero miliardo in realtà di fatto può essere visto come una mazzetta e non solo la metà, la procura parla di 523 milioni finiti a un personaggio noto per essere apparentemente corruttore, ma pure l'altro mezzo milione è finito all'ex ministro che si era autoassegnato la concessione, quindi comunque era tutto il miliardo, almeno da un punto di vista, diciamo, etico e magari non penale, è da ritenere mazzetta. No, è chiaro questo. Adesso, mentre cerchiamo di ripristinare anche il collegamento, perché era veramente disturbato con Claudio Gatti, riprendetelo per favore. No, nessuno ha detto che non ci fosse una mazzetta, ho solo detto che la parte aggiuntiva, che questi soldi non andavano, come, ripeto, è inutile, visto che non siamo populisti, non siamo demagogici, tra l'altro qualcuno mi scrive: vorrei vedere le sue note spese, quelle del direttore. Guardi, lei non ha capito una mazza, mi scusi il termine. Nelle società private veniamo controllati, i soldi sono del Sole 24 Ore, i controlli ci sono, io me la prendo non perché uno va a spendere 200 euro al ristorante, sono fatti i suoi se lo fa per una società privata, ne risponderà agli azionisti, al manager, all'ufficio del personale, io me la prendo perché sono soldi dei cittadini, li avesse spesi il manager della società X anche 600 euro per la sua cena alle calandre, fatti suoi, avrà avuto un buon motivo e comunque sono soldi della società X e ne risponderà alla società X, non soldi dei cittadini. Ma la vogliamo capire la differenza oppure no? Torniamo con Claudio Gatti, di nuovo in collegamento. Dicevo, sono tutti soldi che andavano in quell'obiettivo, però inizialmente era sembrato, Claudio, un tentativo di corruzione solo Italia-Nigeria, mettiamolo così, non con un ritorno anche così importante in Italia. Secondo aspetto, qual è la posizione che viene contestata a Paolo Scaroni, ex ministro delegato dell'ENI, e a Claudio Descalzi, attuale ministro delegato dell'ENI, al tempo braccio destro, vice di Scaroni? Allora, per quello che riguarda Scaroni, il discorso è molto semplice. Si ritiene che sia stato lui a favorire il contatto iniziale tra il socio italiano del mediatore nigeriano e l'ENI, nella figura poi di Descalzi, e quindi entra in gioco l'attuale amministratore delegato. Quindi in pratica sarebbe successo questo: l'ex giornalista piduista Luigi Bisignani avrebbe contattato, non ha contattato, questo è documentato e attestato. No, sono uscite anche le intercettazioni, certo. Esatto. Bisignani ha contattato Scaroni dicendo: c'ho un mio contatto nigeriano che vuole fare da mediatore nella vendita del campo petrolifero che potrebbe interessare a l'ENI. Possiamo parlarne? Scaroni ha detto: parlane con Descalzi, che era all'epoca il capo della Production and Exploration, quindi era la divisione che si occupava di queste cose, e da allora c'è stato per un anno e mezzo una serie di contatti personali, elettronici e telefonici tra l'attuale amministratore delegato Descalzi e questa figura di intermediario, che peraltro l'ENI nega di aver mai coinvolto nella trattativa, perché le dichiarazioni ufficiali dell'ENI sono sempre: abbiamo trattato solo col governo nigeriano. In realtà hanno trattato per mesi con questo intermediario, ma l'affare si è concluso con un pagamento su un conto al governo. Alle 18:07 torna in diretta Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, stavo chiedendo a Claudio Gatti in merito alla vicenda dell'Eni. Allora, visto che l'Eni dispone di 46 concessioni in Nigeria per un'estensione complessiva di 8.500 km quadrati e produce lì circa 96.000 barili al giorno, certo, l'area in questione, oggetto dell'indagine della magistratura, l'OPL 245, costituiva l'area con maggiore potenziale produttivo, con riserve stimate in 500 milioni di barili, il controvalore ipotetico è di quasi 45 miliardi di dollari a prezzi correnti. Però, Claudio, visto che l'Eni già opera lì, un conto è cercare un intermediario per arrivare al governo nigeriano e vincere, diciamo, la gara per avere quell'area. È brutto dirlo, ma si fa spesso e si fa soprattutto in quei paesi, non solo. Altra cosa è una partita di giro per cui parte di questi soldi, circa 200 milioni, sarebbero dovuti rientrare in Italia. Allora, al di là delle difficoltà che poi ha avuto il ministro nigeriano, ministro del petrolio Dan Etete, che era in possesso di quella concessione, a far portare questi soldi, ripulire questi soldi, perché ha tentato prima con JP Morgan di portarli in un conto svizzero presso la banca della Svizzera italiana controllata dal Gruppo Generali, però la banca ha rifiutato, poi ha tentato anche di spostarli in Libano con un conto intestato a una sua società. Ma al di là di questo, e poi nel 16 agosto è riuscito a trasferire 400 milioni sul suo conto presso la First Bank of Nigeria e altri 400 presso la Keystone Bank. Il punto è, l'Eni dice, noi alla fine per chiudere questo accordo non abbiamo utilizzato i mediatori che ci erano stati segnalati. Beh, questo cambierebbe molto la posizione, o no? Cambierebbe molto se fosse vero. Il punto è un altro. Innanzitutto, non è stato Etete a trasferire il miliardo prima nella banca svizzera, poi una volta ritornato su conti di Malabu in Nigeria, perché quel conto, come faceva sottolinea l'Eni per dire noi non trattiamo con mediatori, non era di Etete, era del governo, quindi è stato in teoria il governo. In pratica ci sono evidenze che sin dall'inizio era tutto concordato, il governo aveva un ruolo puramente di garante barra comprimario. L'accordo era tra Etete, Eni e Shell, quindi hanno sicuramente trattato con Malabu e Etete, hanno trattato per molto tempo anche con Obi, che è l'intermediario fra Eni e Etete, che peraltro quello segnalato da Bisignani, l'ho voluto io, l'avete voluto voi. Ok, ma è quello segnalato da Bisignani, dici tu, no? Esatto. No. Perché non ci dimentichiamo, c'è un passaggio chiave. Nel febbraio del 2011, è l'Eni a firmare un contratto di esclusiva con Obi che permette a Obi di andare da Etete e dire sono l'unica persona attraverso cui potete passare per parlare con l'Eni. Quindi è l'Eni che di fatto legittima Obi. No, chiarissimo anche il passaggio e i suoi vari aspetti. Grazie molte a Claudio Gatti. Segnalo per dovere di cronaca che oggi invece il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha twittato sono felice di aver scelto Claudio Descalzi come numero di Eni, potessi lo rifare domani mattina, rispetto le indagini e aspetto le sentenze. L'Eni comunque già da ieri ha negato che vi sia alcun illecito e ha detto che avrà massima collaborazione con la magistratura. Adesso però rapidamente la borsa, c'è chi mi sta chiedendo la borsa da un'ora, le ho già spiegato all'inizio che meno 0,10% non è una gran giornata, comunque adesso diamo anche i titoli di borsa e l'andamento delle quotazioni. Vi dovete accontentare di me. World Duty Free più 3%, miglior titolo dell'S&P MIB, segue il Monte dei Paschi più 2,90, STMicroelectronics più 2,20, Buzzi Unicem più 2%. Monte dei Paschi va bene anche alla luce delle dimissioni di due consiglieri della fondazione che lasciano il posto ai nuovi soci esteri. Per quello che riguarda World Duty Free, faccio notare che sono arrivati buoni dati sul traffico aeroportuale di Gran Bretagna e Spagna, ed essendo World Duty Free, avendo il core business proprio sulla ristorazione negli aeroporti oltre che nelle stazioni, è chiaro che il titolo poi si apprezza. Bene, dicevamo anche Todd's più 1,50, Azimut più 1,40 come Finmeccanica, Hughes più 1,20, G-Tech più 0,90 come Enel Green Power. Chi va male? Pirelli, pesano, diciamo, è un elemento quasi indiretto, perché sono andati male i dati, le vendite dei pneumatici della Michelin, e per converso si fa meno 1,43% anche su Pirelli. CNH meno 1,30, A2A meno 1,20, Fiat meno 1,20%, UbiBanca meno 1% come Autogrill e Intesa San Paolo. Lo 0,70 lo perdono Campari, la Pop Milano. Lo 0,60 Telecom Italia, dove si raffreddano un po' le attese sull'operazione spezzatino di Team Brasil, quella che abbiamo chiamato già mesi fa la Telecom Novela. Allora, per quello che riguarda le altre borse, meno 0,40 dicevamo Francoforte, invariata Parigi, l'America meno 0,30, Londra più 0,11, l'euro è a quota 1,2955, quindi sempre relativamente debole, ma non a sufficienza a nostro avviso. Di euro, di area euro, parleremo dopo le informazioni sul traffico, visto che oggi, anzi si sta chiudendo in queste ore, la prima giornata delle due giornate di riunioni dei paesi europei. Oggi l'Eurogruppo, quindi i paesi che aderiscono all'euro, i ministri economico-finanziari dei paesi che aderiscono all'euro. Domani l'Ecofin, che è invece allargato a tutti gli altri paesi, e sarà presieduto per la seconda volta dal nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan, visto che abbiamo un semestre europeo. La cosa più importante oggi, al di là di altre dichiarazioni di Draghi, mi sembra la dichiarazione anche di Schäuble, che ha detto che per la Germania, che in Europa servono investimenti, inclusa la Germania. Mi chiede un ascoltatore: ma è possibile oggi avere una buona notizia? Beh, insomma, qualche titolo di borsa bene è andato, il migliore in assoluto con Afi Prestito più 9%, Grandi Viaggi più 5,30. La buona notizia, sì, gliela do, è appena uscita, non riguarda la Grecia. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha alzato il voto della Grecia da AB da B meno. Questa è la buona notizia che abbiamo oggi. Invece, per quello che riguarda gli scenari economici, dicevamo, la prima giornata di lavori, e il nostro Sergio Nava l'ha seguita dalla mattinata. Sergio, buonasera. Buonasera. E partiamo subito, visto che ho 10 minuti scarsi, con Mario Draghi, e quindi Presidente della Banca Centrale Europea, per far sì che tornino gli investimenti. Ha detto Draghi: occorre fare riforme strutturali più ambiziose, i paesi dovranno affrontare le raccomandazioni specifiche in maniera determinata. Let me say one word on the fiscal consolidation. Lasciatemi dire qualcosa sul consolidamento dei conti pubblici. Non dobbiamo dimenticare il passato, con i profondi squilibri economici e i progressi fatti negli ultimi anni sul fronte del consolidamento in molti paesi. Progressi che hanno notevolmente ridotto gli squilibri nell'area euro. Dobbiamo ricordare che il patto di stabilità e crescita ha agito come un'ancora per la fiducia. Gli effetti delle politiche monetarie e di bilancio sono maggiori solo se è stato preparato il terreno per riforme strutturali adeguate, piuttosto che in assenza di riforme. È un fatto chiaro, ed è per questo che si parla di dividendi delle riforme. Uno dei punti centrali dell'incontro di oggi è stato quello di porre l'accento sulle riforme strutturali, perché il ritorno degli investimenti vuol dire riforme strutturali più ambiziose. E tutti siamo d'accordo su questo punto. Per rispondere alla necessità di spingere sulle riforme strutturali, i paesi devono affrontare le raccomandazioni specifiche per il 2014 in maniera determinata. Questo è un punto importante, perché in nessun modo la politica monetaria e di consolidamento dei conti pubblici da sole bastano per far ripartire la crescita, a meno che non ci siano riforme strutturali serie. If there are no serious structural reforms. Allora, devo dire che il premier Matteo Renzi, che oggi ha twittato moltissimo, al di là dell'ENI, ha twittato anche sull'Europa. È sembrato un po' seccato dal richiamo che è arrivato ieri dalla BCE. Ha detto: noi rispettiamo il 3%, siamo tra i pochi a farlo, dall'Europa dunque non ci aspettiamo lezioni, ma i 300 miliardi di investimenti. Tu, Sergio, hai raggiunto inizialmente anche il ministro dell'economia Padoan proprio sul deficit italiano. Sì, Padoan ha parlato proprio all'ingresso quando è arrivato questa mattina, poi non ha più parlato, e diciamo che quello che Padoan ha sostanzialmente detto è che rispetteremo gli impegni, cioè il 3%, ha continuato a rassicurare su questo, e però insomma ha battuto molto il tasto degli investimenti, investimenti che però devono avere, dice Padoan, basarsi su riforme strutturali e anche sull'efficacia degli strumenti di finanziamento. Sentiamo subito Padoan. C'è una forte convergenza sull'idea che gli investimenti sono essenziali in tutta Europa per riprendere la crescita. I due ingredienti fondamentali sono riforme strutturali che migliorano l'ambiente per le imprese e più efficacia negli strumenti di finanziamento per attirare i capitali privati. L'Europa deve mettere crescita e occupazione al centro delle priorità dopo che ha messo consolidamento fiscale e unione bancaria, e questo credo che sia totalmente condiviso dai miei colleghi. Come la stessa BCE ammette nel bollettino, e come tutti sappiamo, il quadro macroeconomico oggi è molto peggiore di quello di 6 mesi fa e c'è un'ovvia meccanica implicazione per i conti pubblici. Noi comunque rispetteremo gli impegni presi. Dovrete superare resistenza a Germania. Con la Germania non ci sono resistenze, c'è accordo. E questo è quanto ha detto Padoan rispondendo alla fine a una domanda di Radio 24 proprio sul fatto che insomma la Germania resta comunque guardiana dei conti in ordine. Padoan dice c'è accordo. La cosa interessante, Sebastiano, è che nella conferenza stampa poi che c'è stata a metà giornata, il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem ha dato un segnale importante, cioè ha detto: stiamo entrando in una nuova fase, dalla stabilità finanziaria al sostegno alla crescita. Con tutti ovviamente gli accorgimenti del caso, lo stesso Dijsselbloem, Draghi, anche il commissario agli affari economici Katainen hanno detto occorre mantenere il consolidamento dei conti, e insomma tutte quante i se e ma e i però, c'è stato però questo segnale importante. Sentiamo allora le parole di Dijsselbloem. Gli investimenti sono una parte molto importante della politica che occorre portare avanti e di cui abbiamo bisogno. Riguardo la politica monetaria, credo che la BCE stia facendo molto per favorire e sostenere la ripresa economica, per la quale sono fondamentali le riforme strutturali. Su questo fronte, molti paesi potrebbero e dovrebbero fare molto di più. Circa i conti pubblici, nei prossimi mesi discuteremo della politica di consolidamento e lo faremo non appena saranno pronte le leggi finanziarie dei diversi paesi. Infine gli investimenti, non solo pubblici ma anche privati. Credo che su questi punti tutti siano d'accordo. Il grande dibattito è su quale politica portare avanti per favorire la crescita e l'occupazione e quale combinazione di politiche si tengano insieme. Beh, diciamo, insomma, ci stanno arrivando anche Dijsselbloem e il mitico Falco Schäuble, che è il ministro delle finanze tedesco, e che tu hai raggiunto. Ci stanno arrivando, è riferito al fatto che va bene il rigore, va bene il rispetto dei patti, però o qua iniziamo a pensare alla crescita, modestamente ci permettiamo di dirlo da 2 anni, oppure non si esce né dal rigore e si entra nel rigor mortis, tanto se tu non cresci col PIL, il deficit e il debito non li metterai mai sotto controllo. Comunque, Sergio Schäuble. Sì, Schäuble ha parlato, bisogna dire, ai giornalisti tedeschi, abbiamo poi recuperato la sua voce. Diciamo che una piccola premessa, il fatto che si parli così tanto di investimenti perché è l'unico punto su cui tutti sono d'accordo in realtà, perché se poi guardiamo al problema dei conti pubblici, la Francia che ha chiesto altri 2 anni di dilazione per entrare al deficit, certo, l'Italia che comunque ormai balla vicino al 3% e quando si tocca il tasto tutti dicono aspettiamo il 15 ottobre quando la legge stabilità viene presentata in commissione, insomma se c'è un argomento su cui tutti ormai sono d'accordo, anche fortunatamente, perché insomma investire significa far circolare denaro e rilanciare l'economia, sono gli investimenti, e su questo l'apertura tedesca. Sentiamo appunto Schäuble. Ci occuperemo della situazione economica in Europa, sostanzialmente della creazione di condizioni migliori per gli investimenti. Ne abbiamo già parlato a giugno. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti in Europa. Occorrono maggiori investimenti nel settore privato. Il tema, infatti, oggi è come ridurre la distanza fra salari lordi e netti per gli imprenditori, in modo che le imprese possano rafforzare gli investimenti nel settore privato. La strada giusta è maggiori investimenti, mantenendo ovviamente la barra ferma sul consolidamento dei bilanci, sulle riforme strutturali e su migliori condizioni istituzionali. Il tutto per favorire la crescita e i posti di lavoro. Sulla Francia, il mio collega Sapin ha tratteggiato la situazione mercoledì. Parigi farà ulteriori tagli per 21 miliardi, ne abbiamo parlato. Quando la Francia presenterà la sua finanziaria, sarà analizzata dalla Commissione e solo successivamente dall'Eurogruppo. È vero che la Francia mancherà il rientro dal deficit già quest'anno. Anche di questo se ne occuperà la Commissione e in seguito anche Eurogruppo ed Ecofin. Allora Sergio, questo per quello che riguarda anche la posizione di Schäuble, ma in realtà mi chiede l'ascoltatore e ti giro volentieri la domanda, al di là di tutte queste dichiarazioni, si sta muovendo qualcosa oppure siamo alle dichiarazioni di intenti, ci vuole questo, ci vuole quello, un po' di allora, crescita, sì, ma anche il rigore, prego. La domanda che aveva proprio Fagiolo, due cose l'hanno dette. La prima è che arrivo tra poco agli investimenti. Il risultato, l'unico risultato vero di oggi è questa, sono queste linee guida dell'Eurogruppo sul lavoro. Sostanzialmente si chiede di ridurre il cuneo fiscale in Europa ed è un tema che ci tocca molto da vicino. E lo si chiede sia si indicano due strade, sia tagliando la spesa improduttiva, ed è quello che l'Italia sta cercando di fare con la spending review, sia spostando il carico fiscale su altri settori che danneggino meno la crescita. E attenzione, l'Eurogruppo chiede anche riforme del mercato del lavoro per farlo funzionare meglio, tutte cose che già sappiamo, però è anche bene ricordare che questa è l'unica conclusione vera di fatto di oggi. Andando agli investimenti, domani è la giornata, perché domani ci sarà l'Ecofin informale, la presidenza sarà italiana, quindi sarà Padoan a coordinare i lavori. Quattro le proposte sul tavolo, c'è quella italiana, c'è quella franco-tedesca, di cui ha parlato anche il Sole 24 Ore recentemente, c'è quella polacca, c'è quella della Commissione Juncker. Si dovrà cercare un terreno comune e soprattutto delle idee che possano funzionare, perché i soldi pubblici ce ne sono abbastanza pochi in giro e bisognerà attirare capitali privati, forse dando un maggiore ruolo alla Banca Europea degli Investimenti, cosa di cui si è molto parlato negli ultimi 4-5 anni e non si è mai veramente fatto. Quindi vediamo se domani esce veramente qualche idea concreta, perché si dice sempre, si sta dicendo molto, siamo a una svolta, ma la svolta deve arrivare. Sì, siamo a una svolta e la vorremmo appunto anche vedere. Grazie a Sergio Nava, che domani seguirà anche per Radio 24, anche domani tutta la giornata dei lavori del Vertice, che a questo punto diventa Vertice Ecofin. Allora, una risposta velocissima a alcuni ascoltatori che non hanno capito, forse mi sono spiegato male io, il ragionamento sull'ENI. Ho detto semplicemente che un conto è scoprire che un grande gruppo, per aggiudicarsi degli appalti, in questo caso l'esplorazione di un'area geografica, ha pagato quello che in alcuni paesi, in Germania, le spese di rappresentanza, sotto cui poi si nascondono le regalie ai politici locali in questi paesi, sono anche contabilizzate. In Francia si potevano detrarre dal carico fiscale, cioè i vari paesi si muovono su questi. La legge tedesca per esempio punisce solo i dipendenti delle società e non le società stesse, cioè c'è il riconoscimento che le spese di rappresentanza, poi il limite lì porlo è molto difficile, servono a chiudere gli affari quando hai in mano affari miliardari in certi paesi. È brutto dirlo, ma è così. Poi uno può immaginarsi anche un'altra realtà o decidere di non fare più affari nei paesi emergenti dell'Africa subsahariana o anche nei paesi, diciamo, del sud-est asiatico, però è così. Altra cosa è, e per quello che ponevo il distinguo con Claudio Gatti, è se invece scopriamo, che è una parte dell'accusa della Procura di Milano, che questo giro di tangente non è servito solo a fare come spese di rappresentanza a ottenere la concessione, a vantaggio quindi del gruppo Eni, ma è tornato indietro ad alcuni dei soggetti coinvolti. Questa è la vera differenza, a mio avviso. Comunque, un ringraziamento anche questa settimana a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Pietro La Corte per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Barisoni gli auguri di una buona serata e un buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi, con un'altra voce, spero. Radio 24. La passione si sente.